giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. I preparativi a Villa Mattei iniziano già al mattino del 10 luglio del 1991. La contessa Alberica Filo della Torre e suo marito, il costruttore Pietro Mattei, festeggiano in serata il 10° anniversario di nozze. Nelle stanze e nel giardino della villa alloggiata, prestigioso quartiere residenziale a nord di Roma, sono al lavoro in quel momento 4 operai e le 2 domestiche filippine di famiglia. Le 9 del mattino. Il corpo della contessa ormai senza vita viene trovato da una domestica. Si trova nella sua stanza, chiusa a chiave e aperta con un passepartout. Vestita solo di un completo intimo, Alberica giace a terra con un lenzuolo stretto al collo. È stata più volte colpita alla testa con uno zoccolo di legno prima di venire strangolata. Nessuno in casa Mattei ha visto né sentito nulla. La moquette verde della camera da letto della contessa è macchiata di sangue. Alberica, Filo della Torre, giace tra il letto e il guardaroba. La donna porta al polso un orologio, ma da un primo sopralluogo emerge che alcuni suoi gioielli sono stati rubati. Il magistrato incaricato dell'inchiesta è Cesare Martellino. Sono molte le ipotesi: tentativo di violenza carnale, omicidio a scopo di rapina, delitto passionale. Il pubblico ministero giunge a casa Mattei solo alle 17. E a quell'ora, attenzione, la scena del crimine è già stata attraversata da decine di persone. Qualcosa nella procedura dunque non ha funzionato. Le impronte sulla scena del delitto sono confuse, forse addirittura compromesse. Il magistrato Cesare Martellino, attualmente procuratore di Eurojust all'AIA, racconta le sue impressioni ad Armando Stella. Proprio nella primissima fase, se possiamo dire che qualcosa non ha funzionato, forse non ha funzionato il primo intervento delle forze dell'ordine, perché nella stanza del delitto, quando sono arrivato io, chiamato come magistrato di turno, ho trovato dentro parecchie persone. Quindi questo un po' può aver reso difficoltoso il reperimento di impronte. Il luogo, la scena del crimine dovrebbe essere sempre isolata, nessuno dovrebbe poterci entrare salvo i periti, i medici e via. Invece purtroppo vennero chiamati prima i vigilantes del comprensorio dell'Olgiata, poi venne chiamata la stazione dei carabinieri, poi venne chiamata la compagnia dei carabinieri, poi arrivò il reparto operativo e alla fine sono arrivato io. Quindi c'erano un po' troppe persone, però onestamente devo dire che questo non ha pregiudicato le indagini. Al momento della scoperta del cadavere, Pietro Mattei ha già lasciato la villa per recarsi al lavoro e alle 8.30 varca il cancello d'ingresso dell'Olgiata. Sono presenti in quel momento, oltre ai 2 figli piccoli, Manfredi e Domitilla, un loro amichetto, la babysitter inglese, le 2 domestiche filippine e i 4 operai. Tutti vengono ascoltati dagli inquirenti e alla fine vengono ritenuti estranei ai fatti. I sospetti cadono allora su Roberto Iacono e Manuel Winston. Il primo, 30 anni, e qualche precedente penale, figlio di Franca Senapa, insegnante di sostegno dei figli della contessa. Reduce da un esaurimento nervoso, Iacono è autorizzato a utilizzare la piscina della villa. Winston, filippino, è un ex domestico di casa Mattei, licenziato pochi mesi prima. Tutti vengono scagionati dall'esame del DNA effettuato su alcune tracce di sangue trovate sui loro pantaloni. Le indagini si estendono allora alle persone vicine alla famiglia. Tra queste viene ascoltato Michele Finocchi, all'epoca dei fatti capo del gabinetto del SISDE, il servizio segreto civile. Era stato detto al dottor Mattei che avrebbero sigillato la camera e lui, che aveva il guardaroba a fianco a questa camera, e disse: ma io domani come mi vesto? E mi pregò di prendere un vestito. Naturalmente, data la delicatezza della situazione, mi sono rivolto all'ufficiale dei carabinieri presente, il quale ha chiesto l'autorizzazione al magistrato, e accompagnato da 2 investigatori sono andato nel guardaroba a ritirare un vestito. Passando per la camera da letto ho visto il corpo di Alberica, ma insomma devo dire che ho cercato di tirare dritto. Alcuni interrogativi sulle prime ore delle indagini vengono posti da Giuseppe Di Piazza, allora capo cronista del Messaggero di Roma, al microfono di Nicola Zaccagni. Secondo me l'indagine sul delitto dell'orgiata è viziato da una sorta di buco iniziale. Si è all'inizio consentito un rimescolamento troppo grosso della scena del delitto. Troppe persone sono entrate nella stanza, non è stato congelato, la scena non è stata congelata. E mi ricordo poi nel processo che io subì in seguito per diffamazione che la storia delle impronte digitali non fu mai chiarita, scomparvero tutte, non c'erano impronte digitali utili in una camera da letto e questo onestamente mi è sembrato sempre un po' stravagante. Io credo che in questo delitto, come in quasi tutti i delitti, ci sono tante persone che non vogliono la verità, innanzitutto l'assassino e tutti quelli che lo hanno aiutato. C'è molto interesse a non sapere le cose, questo sì, e ci sono molti interessati a che questo non si sappia. Certo che i carabinieri si mossero in maniera convulsa all'inizio, ripeto, in una scena del delitto alterata, in cui le impronte erano state presumibilmente cancellate, in cui tutti gli oggetti erano fuori posto, in cui in tanti avevano toccato il cadavere. Onestamente lavorare bene in quell'ambiente, con l'ombra poi inevitabile dei servizi segreti sulla vicenda, visto il ruolo che aveva in quel momento il dottor Finocchi, era il numero due del SISDE, ricordiamocelo, ed è l'uomo che, secondo i carabinieri, aveva una relazione sentimentale stabile con la vittima, con l'Alberica Filo della Torre, si può capire che certo non era facile indagare all'orgiata e onestamente indagarono forse male. A distanza di 3 anni nuove testimonianze portano gli inquirenti sulla pista finanziaria e le dichiarazioni di Emilia Parisi Iphone, legata per qualche tempo a Pietro Mattei da una relazione sentimentale, inducono i magistrati ad indagare su 3 conti bancari, quelli cioè che la contessa e suo marito avevano in alcuni istituti di credito svizzeri e sui quali sarebbero stati versati 12 miliardi di vecchie lire italiane. Qualche mese più tardi viene estradato dalla Svizzera Michele Finocchi, imputato insieme con altri 6 ex funzionari del SISDE nel processo sui fondi neri dei servizi. Il PM Cesare Martellino ascolta Finocchi in qualità di persona informata sui fatti, ma l'ex 007 afferma di non aver nulla da dichiarare sui conti della famiglia Mattei. Il ritrovamento di documenti riservati e relativi all'inchiesta sull'omicidio dell'orgiata in casa di Roland Wöhler, l'uomo che accusò Federico Valle del delitto di Via Poma del 7 agosto del 1990, fa pensare che possa esserci qualche legame tra le due vicende, ma anche questa ipotesi, dopo alcuni accertamenti, viene scartata. Siamo nel febbraio del 1995, si apre l'ultimo filone d'inchiesta. I magistrati ascoltano l'imprenditore asiatico Franklin Jung, vicino di casa e amico dei Mattei. Al centro degli interrogatori i suoi rapporti di lavoro con il marito della contessa, ma anche Jung, dopo i primi sospetti, viene ritenuto estraneo ai fatti. Un delitto, quello dell'orgiata, sul quale è molto difficile fare luce, perché manca un movente, come dichiara il PM Cesare Martellino. Le indagini hanno riguardato tutti i possibili aspetti, sia della vita della vittima, sia degli amici, sia dei possibili interessi. Abbiamo cercato in tutte le direzioni, non è che le indagini si sono arenate, non si è arrivati all'individuazione del colpevole e questo principalmente perché non è stato trovato un movente. Nel momento in cui si trova il movente normalmente si va in discesa nella ricerca degli omicidi. In questo caso, non essendo stato trovato un movente, si doveva indagare un po' come si fa sempre nella vita della persona, nelle amicizie, negli interessi, negli affari. E tutto questo è stato fatto. Il fatto che non si sia arrivato alla scoperta del colpevole non è che le indagini si siano infarbiate. Le indagini, se non emergono elementi nuovi, per adesso non è possibile farne altre, sono state fatte tutte, è stata esplorata a 360 gradi. Questa alla fine è una convinzione che si sta radicando in me, cioè che non essendoci nessun collegamento deve essere per forza un delitto occasionale, oppure veramente un delitto perfetto, ma perfetto perfetto senza alcun errore, che mi pare difficile.